GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. 24 anni di carcere per Paolo Castellani. Lo scorso giugno uccise la moglie Elisabetta Molaro con 71 coltellate nella loro casa di Codroipo. Querelata da un genitore della vittima, la ragazzina di 15 anni che a Muggia avrebbe ferito con un coltello l'amica al culmine di una lite. Siccità e stato di emergenza, situazione peggiore dello scorso anno, a rischio irrigazioni in campagna e produzione di energia. La valle dell'idrogeno tra Friuli Venezia Giulia, Slovenia e Croazia, già 25 milioni per trainare innovazione e transizione energetica. Prendono piede gli affitti brevi non solo mare e montagna, ma anche i piccoli borghi, rialzo dei canoni dell'8-10%. Prorogati fino a fine anno i permessi di soggiorno per i cittadini ucraini in fuga dal conflitto in regione, sono 6.200. Un triestino a New York, dalla Grande Mela, dove Ricky Russo è diventato una guida turistica molto ambita, a un temporaneo ritorno a casa. Per lo sport il calcio, oggi l'Udinese contro l'Atalanta, Sottil, a Bergamo dobbiamo giocare la nostra partita, altrimenti non si farà risultato. 7:19 minuti di sabato 4 marzo, buongiorno da Lara Zani e Rita Micoli. Subito il meteo, il cielo è sereno sulla regione, alle 6 c'erano 8 gradi a Trieste, 3 gradi a Gorizia, 2 gradi e mezzo a Udine, 1 grado a Pordenone, a Tolmezzo 2 gradi e mezzo, a Tarvisio 1 grado, a Forni di Sopra 0, sul Piancavallo meno 3, a Sappada meno 4 gradi e mezzo, sul Monte Zoncolan meno 2, sul Monte Lussari meno 5 decimi, a Grado e a Lignano 6 gradi e mezzo. E vediamo le previsioni dell'OSMER dell'ARPA Friuli Venezia Giulia. Per oggi cielo sereno con marcata escursione termica in pianura e nelle valli, mentre sulla costa i venti di brezza e il mare freddo limiteranno il riscaldamento pomeridiano. Lo zero termico nel pomeriggio salirà a 2000 metri, ma al mattino sulla zona montana farà piuttosto freddo. Possibili gelate anche in pianura. 24 anni di carcere, arrivata nel tardo pomeriggio di ieri la sentenza per la morte di Elisabetta Molaro, uccisa con 71 fendenti dal marito Paolo Castellani la sera del 15 giugno dello scorso anno. Sentiamo. Dopo un anno, alla fine degli anni 24, di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. 24 anni di reclusione, interdizione perpetua e 500.000 euro di provvisionale. E quanto ha deciso la Corte d'Assise di Udine nei confronti di Paolo Castellani, accusato dell'omicidio della moglie Elisabetta Molaro, con 71 coltellate il 15 giugno dell'anno scorso nella loro villetta in via delle Acacie 5 a Codroipo. Accolte da parte della Corte le attenuanti generiche ed esclusa la crudeltà. Una sentenza che è stata accolta con stupore da parte della madre di Elisabetta e da parte dei tanti presenti in aula, tutti con un fiocco rosso al petto. Petronilla Beltrame, mamma di Elisabetta. Non è niente, 24 anni, dopo aver perso una figlia e la mamma per due bambine, le 71 coltellate, la crudeltà di 71 coltellate di una mamma giovane. Non è niente, 24 anni, cambiare le leggi, grazie. Nadia Molinari, amica di Elisabetta. I giudici non sanno niente di Elisabetta. Io sono furiosa e sono una persona che si è sempre fidata delle istituzioni, perché i miei genitori questo mi hanno insegnato. Ma in questo caso le istituzioni mi hanno delusa moltissimo. Federica Tosella, avvocato di parte civile. Aveva ragione il collega a ritenere insussistente l'aggravante, perché era stata contestata in maniera, secondo me, non corretta. E rimane il fatto che sono 24 anni per 71 coltellate. Poi la parte civile in realtà non interloquisce sulla quantificazione, come ho detto in discussione, interloquisce sulla qualificazione. E secondo me questo fatto di reato non meritava di essere qualificato come attenuato dalle circostanze generiche. Tutto lì. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. È stata querelata per lesioni da un genitore della vittima la ragazzina di 15 anni che sabato scorso a Muggia, al culmine di una lite, avrebbe ferito con un coltello l'amica 14enne. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, a chiamare i soccorsi è stato un operatore sanitario che, mentre si trovava all'interno di una pizzeria, ha visto sul marciapiede opposto la ragazzina sanguinante. I militari dell'arma hanno poi rintracciato nella sua abitazione la quindicenne che ha consegnato il coltello da cucina utilizzato per l'aggressione. La vittima è stata dimessa dall'ospedale Burlo Garofalo la sera stessa con prognosi di 7 giorni. Nell'ambito delle iniziative di prossimità contro la violenza di genere, il camper della Polizia di Trieste sarà presente oggi in Campo San Giacomo tra le 10 e le 12 con la campagna itinerante «Questo non è amore». Energia ed economia, l'idrogeno come traino all'innovazione e alla transizione energetica del sistema produttivo della regione è stato il tema dell'incontro organizzato a Trieste da Confindustria Alto Adriatico e Confindustria Udine. Un confronto sul progetto transnazionale della Valle dell'Idrogeno tra Friuli Venezia Giulia, Slovenia e Croazia, già finanziato con 25 milioni di euro attraverso il PNRR, a cui partecipano 34 partner, 14 della nostra regione. L'obiettivo del progetto europeo è di mobilitare 214 milioni per l'investimento iniziale e 739 milioni di investimenti una volta a regime. Puntare alla neutralità tecnologica è una responsabilità sociale, è stato sottolineato dal direttore esecutivo del Clean Hydrogen, Bart Biebeck. Solo così nel 2050, ha detto, il 20% dell'energia prodotta potrebbe proprio venire dall'idrogeno. In videocollegamento il ministro dell'Ambiente Frattina ha evidenziato come sia partito proprio da Trieste, città della scienza, questo importante progetto transnazionale. Ora, ha detto, ci attende una fase di lavoro improntata alla concretezza. L'approccio deve partire dalla comprensibilità di questo tipo di progetti da parte della società, ha spiegato infine il direttore generale dell'Enea, Graditi. La crisi idrica non è una probabilità ma già una certezza in vista della prossima estate. Resta in vigore lo stato di emergenza. Ieri un incontro in regione a Trieste per formare un'unica struttura di riferimento e di coordinamento. Lo stato d'emergenza siccità resterà in vigore per tutto il 2023. La prossima estate eredita le difficoltà di un anno fa, a cui altre se ne aggiungono. Da gennaio ad oggi si contano 40 giorni di secca, la neve è scarsa, le falde acquifere ancora più basse. Da 15 mesi, ininterrottamente, le piogge sono sotto la media. Insomma, la crisi idrica non è una probabilità, ma una certezza della prossima estate. Al momento diversi segnali prospettano una situazione anche peggiore, ma molto dipenderà dalla piovosità dei prossimi 2 o 3 mesi. Un vertice in regione con tutti i soggetti coinvolti, autorità politiche, consorzi di bonifica, multi-utility e aziende idroelettriche, ha stabilito un coordinamento costante. Ogni settimana sarà fatto il punto per eventuali provvedimenti. Dalla Protezione Civile Nazionale arrivano 4 milioni e 2 per interventi urgenti. Saranno consorzi e gestori delle reti idriche a segnalare entro marzo le opere maggiormente necessarie. Partirà una campagna di informazione sull'uso razionale dell'acqua, destinatari i cittadini e gli agricoltori. Nelle campagne si investirà su sistemi di irrigazione di ultima generazione e di microirrigazione, campagne in cui il cambiamento climatico è ben percepito. Enzo Lorenzon è il presidente del Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia. Serve già l'irrigazione per il frumento, cose che non succederanno mai. Questo ci fa capire le problematiche che stanno sorgendo. Il frumento, che non è mai stato irrigato normalmente in questo periodo, oggi ha bisogno di acqua, altrimenti non va avanti. Sul fronte idroelettrico, Edison ha offerto la disponibilità a mantenere in invaso 9 milioni di metri cubi d'acqua in più. Trieste, Antonio Cagliazza, TGR Friuli Venezia Giulia. Vediamo gli appuntamenti di oggi verso le elezioni del 2 e 3 aprile. A piedi dal Greto del Tagliamento a San Daniele è la prima di una serie di camminate del candidato alla presidenza della regione Massimo Moretuzzo. 7 chilometri con partenza alle 9.45 dalla località Tabine a Villuzza di Ragogna fino alla biblioteca guarneriana di San Daniele alle 17.30 con un incontro pubblico con Moretuzzo e Angelo Floramo, storico e scrittore. Alle 12 al Palace Suite di Via Dante a Trieste la presentazione della lista di Forza Italia per il Collegio di Trieste. Oltre ai 9 candidati saranno presenti la coordinatrice regionale Sandra Savino e il sindaco Roberto Di Piazza. Alle 10 al Caffè degli Specchi in Piazza Unità a Trieste, presentazione della lista Lega Salvini Premier per il Collegio di Trieste. Alle 18.30 stesso appuntamento al Parco di Villavarda a Brugnera, alle 14 Piazza Repubblica a Monfalcone. Alle 11 nella sede provinciale di Fratelli d'Italia di Via Graziano a Udine, presentazione dei candidati per il rinnovo del Consiglio regionale nei collegi elettorali di Udine e dell'Alto Friuli. In autobus e a piedi Alberto Felice De Toni, candidato sindaco di Udine, sarà oggi alle 12.30 in via Cividale, alle 15 nel piazzale della stazione, in viale Ungheria, piazzetta del Pozzo e via Aquileia, via Vittorio Veneto, alle 17.30 l'arrivo in piazza 20 settembre e quindi in via Zanon. Evento del terzo polo per la presentazione dei candidati al Consiglio Comunale di Udine alle 16 in piazza 20 settembre. Presentazione dei 31 candidati di identità civica al Consiglio Comunale di Udine alle 12 nel Salone del Popolo, Palazzo d'Aronco, Udine. Sono stati prorogati fino alla fine dell'anno, cioè per altri 9 mesi, i permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini ucraini beneficiari di protezione temporanea. Permessi che scadevano oggi, 4 marzo, e che in Friuli, Venezia Giulia riguardano oltre 6.200 persone fuggite dal proprio paese in guerra dopo l'invasione delle truppe russe. Il provvedimento prevede la proroga delle misure di assistenza e accoglienza già disposte, l'accoglienza diffusa svolta da comuni, enti del terzo settore, enti religiosi civilmente riconosciuti, e ancora il sostentamento per le persone titolari della protezione temporanea che abbiano trovato sistemazione autonoma, il servizio sociale offerto dai comuni ospitanti tanti e prorogato fino alla fine del 2023 anche lo stato di emergenza per assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina in fuga. Il mercato degli immobili in affitto sta cambiando anche in regione, rivoluzionato dalle locazioni brevi trainate dal turismo, ma anche da esigenze di carattere sociale, mentre l'inflazione spinge i canoni all'insù. La nuova tendenza degli affitti brevi sotto i 30 giorni sta prendendo sempre più piede anche in regione, trainata soprattutto dal mercato turistico che punta non più solo a mare e montagna, ma ora anche alla riscoperta dei piccoli borghi, dalle valli del Natisone, alla Carnia, al Collio, ai siti UNESCO. Stando ai numeri delle presenze turistiche per la prossima stagione, sinora registrati tra i proprietari dalla Federazione Agenti Immobiliari, il 2023 si preannuncia un anno da record, nonostante il rialzo dei canoni per effetto dell'inflazione. In un anno aumenta i medi stimati tra l'8 e il 10% nel mercato degli affitti turistici, del 5% invece in quello abitativo degli immobili più richiesti, sui circa 80 metri quadri. Ora l'affitto medio di 6-7 euro al metro quadro al mese. Su questo mercato a spingere i rincari, spiega il vicepresidente nazionale della FIAIPE Leonardo Piccoli, e anche un forte aumento della domanda, per lo più da lavoratori trasfertisti e da studenti universitari, a fronte però della scarsità di immobili disponibili, carenza dovuta in parte anche alle locazioni brevi, che in quest'ambito si attestano al 30% contro il 70% delle turistiche, segnala sempre la FIAIP, rilevando che a richiederle sono spesso coniugi in via di separazione o familiari di pazienti in cura in strutture sanitarie residenti in altre regioni. In aumento coi canoni intanto anche i casi di morosità, che pure stanno cambiando l'offerta. Conferma il quadro l'Unione Piccoli Proprietari Immobiliari. Da Pordenone il suo referente Ladislao Kowalski stima affitti aumentati del 10% negli ultimi 2 anni, non invece quelli per le attività commerciali, dove, salvo poche eccezioni, dice, sono rimasti contenuti a fronte di una domanda che si registra in sofferenza. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. E ora parliamo ancora di turismo, perché il Collio ha fatto registrare presenze in forte crescita nel 2022 rispetto all'anno precedente, un più 36%, circa 45.700 presenze contro le 33.500 dell'anno prima, un aumento che si evidenzia anche confrontando i numeri con l'annata record che era stata nel 2019. Le presenze sono cresciute comunque l'anno scorso, anche rispetto a quell'anno, dell'1%, ed era periodo pre-Covid. I dati sono stati resi noti a Cormons dalla Regione, presentato anche il progetto di riqualificazione in chiave energetica e turistica della caserma Colobini a Brazzano, su cui la Regione ha investito 5,5 milioni di euro, prevista la realizzazione di un impianto fotovoltaico e la creazione di una comunità energetica a favore del territorio, oltre al recupero o alla riqualificazione a scopo ricettivo e turistico di una serie di strutture. Verticalità e senso del limite, sviluppo o vita sostenibile in montagna. È il titolo dell'incontro organizzato a Tolmezzo da una serie di associazioni e comitati per diffondere una cultura di equilibrio con le risorse ambientali disponibili e di consapevolezza dei rischi che gravano sul territorio. L'appuntamento è alle 17 nell'aula magna dell'ISIS Fermo Solari. Protagonista sarà Maurizio Pallante, già consulente del Ministero dell'Ambiente, che presenterà il suo libro L'imbroglio dello sviluppo sostenibile. L'impatto della guerra fredda sulle zone di confine è durato ben oltre il crollo del muro di Berlino. In Friuli Venezia Giulia le cicatrici della storia sono tuttora evidenti. Si stima infatti che sul territorio siano sparse oltre 1300 strutture difensive, di queste solo 4 sono state finora recuperate e valorizzate ad uso turistico. Le altre sono invece in stato di totale abbandono e possono anche rappresentare un rischio per la sicurezza dei cittadini, ma sono anche un immenso potenziale turistico, didattico e divulgativo, oggi trascurato. Per valorizzarlo è nato il progetto Frontiera Est, focalizzato sulle strutture difensive del Friuli Venezia Giulia, realizzato in collaborazione tra l'Università di Udine e l'Associazione Culturale Friuli Storia. Oggi l'inaugurazione del portale frontieraest.it, accessibile online per uno screening immersivo in un click della rete di strutture difensive attualmente visitabili nell'estremo nord-est d'Italia. E appuntamento oggi con l'apertura del 42esimo Salone della Floricoltura e Vivaismo alla Fiera di Pordenone. Fino al 12 marzo su 20.000 metri quadrati di aree espositive, 10 allestimenti a giardino con piante ad alto fusto, giochi d'acqua e arredo esterno di design, si alternano a circa 200 stand commerciali curati da vivai, floricoltori, rivenditori di bulbi e sementi, concimi, attrezzature per il giardinaggio, mobili per esterni. Sono attese in visita più di 4.500 persone con gruppi organizzati da Slovenia, Croazia e Austria. Più di 5.000 biglietti sono stati già venduti in prevendita dal sito www.ortogiardinopordenone.it, dove è possibile acquistare il titolo d'ingresso a prezzo ridotto. Alle 10.30 nella hall ingresso centrale l'inaugurazione ufficiale, presente Luca Ciriani, ministro dei rapporti con il Parlamento. Novità di questa edizione è il Giardino dei Libri, evento realizzato in collaborazione con Fondazione Pordenonelegge.it, che aprirà martedì 7 marzo. Parliamo di salute. I volontari dell'AISM, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, tornano in piazza oggi, domani e mercoledì 8 marzo, nella Giornata Internazionale della Donna, per sensibilizzare, informare e raccogliere fondi per sostenere la ricerca scientifica, l'unica arma oggi per sconfiggere la sclerosi multipla, oltre che per garantire risposte di cura, assistenza e supporto a tutte le persone con sclerosi multipla e patologie correlate. La manifestazione Bentornata Gardensia, a fronte di una donazione minima di 15 euro, propone due fiori, la Gardenia e l'Ortensia, per rappresentare lo stretto legame che c'è tra le donne e la sclerosi multipla, perché la malattia colpisce le donne due volte più degli uomini. Ne abbiamo parlato con Alberto Volpe, del coordinamento regionale dell'AISM. La sclerosi multipla è una delle malattie più gravi del sistema nervoso centrale, che colpisce il cervello e il midollo spinale. È una malattia autoimmune, cioè praticamente le stesse cellule colpiscono se stesse creando delle aree demilitarizzate appunto nel sistema nervoso centrale. Le persone ammalate in Italia attualmente sono 135.000, in regione sono 2.600. Che cosa si può fare per rallentare il decorso? Oggi effettivamente grazie alla ricerca ci sono diversi farmaci, abbiamo 20 farmaci che possono rallentare, non guarire perché ancora la causa non si è trovata, ma possono rallentare la malattia, quindi diciamo fino a ridurre dell'80-90% gli attacchi della sclerosi multipla. Quindi oggi diciamo che per un neodiagnosticato vede un futuro molto più promettente che non 30 anni fa. Quindi i fondi raccolti saranno destinati alla ricerca e a cos'altro? Con questi fondi che noi raccogliamo, il 50% vanno all'AIS nazionale, proprio proprio per finanziare la ricerca scientifica. L'altro 50% rimane nelle sezioni e con i fondi che rimangono a disposizione finanziamo diversi progetti e diverse attività, per esempio come segretariato sociale, i trasporti gratuiti con mezzi nostri attrezzati, la fisioterapia che facciamo in convenzione con strutture private, perché purtroppo la fisioterapia per quanto riguarda la sclerosi multipla in regione quasi è inesistente, il supporto all'autonomia della persona, attività di benessere oppure il supporto psicologico, e poi facciamo attività tipo serate informative. Voltiamo pagina, un triestino che ha fatto di New York la sua città del cuore, diventando una guida turistica molto ambita tra i suoi clienti, giovanotti e la giornalista Rai Emma D'Aquino. Lavora anche con due tra le più prestigiose università della Grande Mela. Ora è tornato nella sua città come DJ, altra sua passione, ma non solo, il servizio. Triestino di nascita con Chiarbola nel cuore, newyorkese di adozione, Ricky Russo, guida turistica certificata nella Grande Mela e DJ and sound designer, è tornato nella sua città natale per una serie di appuntamenti musicali, ma non solo. Un giro che ha voluto chiamare Dagger Tour, proprio in omaggio alla sua Trieste. Dagger è il suo motto e racchiude anche la sua filosofia di vita. Primo appuntamento musicale, oggi alle 19 al Once Bar di Via Trento a Trieste. Giovedì prossimo, prossimo 9 marzo invece alle 18 al The Modernist di Corso Italia ci sarà un evento incentrato proprio sui suoi tour newyorkesi, di cui si sono occupati anche molti giornali e riviste italiane. Nella Grande Mela è un professionista conosciuto e stimato, innamorato della città che non dorme mai, tanto da guadagnarsi il titolo di The Most Enthusiastic Man in New York, Ricky Russo. È sempre una gioia, un piacere, una grande emozione ritornare a Trieste, ma New York è diventata la mia città ormai da 10 anni e mi sono guadagnato sul campo il titolo dell'uomo più entusiasta di New York. Questo amore è diventato un lavoro. Sono diventato una guida turistica, faccio parte anche del GENIC, l'Associazione delle Guide di New York. Racconto la città attraverso la musica, il cinema, le serie TV, l'arte, la letteratura, i fumetti, la storia, sulle tracce dei grandi miti, dei grandi personaggi, cantanti, pittori, scrittori, registi. E quindi nei miei tour ci sono tappe dedicate a Martin Scorsese, Spike Lee, Sergio Leone, Sex and the City, Friends, diverse zone della città, da Harlem a Brooklyn, Greenwich Village, East Village, Midtown. Insomma, racconto la città attraverso la cultura pop. Contattatemi se volete diventare un vero New Yorker, se volete sapere di più di questa città, andare oltre i cliché. Tramite il sito rickyrusso.com. Trieste, Marinella Chirico, TGR Friuli Venezia Giulia. Ora lo sport, il calcio, dobbiamo andare a Bergamo per giocare la nostra partita, altrimenti molto probabilmente non si farà risultato. Lo ha detto l'allenatore dell'Udinese, Sottili, in vista della partita di oggi alle 18 a Bergamo contro l'Atalanta. Pereira è a disposizione. Se tu vai a Bergamo a guardare l'Atalanta giocare, ci sta che perdi, perché l'Atalanta è forte. L'Atalanta, sì, ok, nel campionato a tutte le squadre del mondo capitano dei periodi di flessione, che possono essere crisi di prestazione, crisi solamente di risultati, tutte e due, però l'Atalanta rimane l'Atalanta, una squadra fortissima, fortissima, allenata da un allenatore secondo me il più bravo a livello europeo, non solo italiano, questo è un mio giudizio. Quindi siamo preparati bene, abbiamo preparato bene la partita. Sappiamo quali sono i loro punti di forza e anche i punti dove andarli a colpire, e dobbiamo essere bravi a interpretarla bene, con grande coraggio, grande personalità, giocando il nostro calcio, mettendo in campo come sempre la nostra identità di gioco, che sono convinto di vedere anche domani. Tucu Pereira è alle prese con un po' di acciacchi, sta stringendo i denti, stiamo cercando di gestirlo come tutti, come sempre abbiamo fatto anche con lui, al meglio, però è a disposizione assoluta. Per il basket femminile di A2, Delser Women a Pudine, in semifinale di Coppa Italia dopo aver vinto per 67-51 in casa del Battipaglia, di nuovo impegnata questa sera nella Final Eight. Alle 20 la Delser giocherà contro Castelnuovo Scrivia. Pallanuoto, sconfitta ai quarti di finale per la Pallanuoto Trieste nella Final Six della Coppa Italia di Serie 1 femminile in corso a Ostia. Trieste è stata superata dal Rapallo per 6-9. Le ragazze della Pallanuoto Trieste tornano in acqua oggi a mezzogiorno per la gara che vale il quinto posto. E nella sesta giornata di ritorno del campionato di Serie 1 maschile, la Pallanuoto Trieste affronterà in trasferta l'Ortigia Siracusa. Si gioca a Catania con inizio alle 15:15. E passiamo al biathlon, seconda gara di Coppa del Mondo per Lisa Vittozzi a Novo Mesto in Repubblica Ceca. La Sappadina disputerà la 10 km a inseguimento con partenza alle 15:45. Ieri è arrivata ottava nella sprint, in zona podio fino a metà gara, ha perso qualche posizione per un errore nella serie di tiro in piedi. E ai mondiali di Planitza, penultima giornata di gare con la 30 km femminile, ci saranno le due Karnik, Martina Dicenta e Cristina Pittin. Il via alle 12 per la combinata nordica, torna a gareggiare il tarvisiano Raffaele Buzzi nella prova dal trampolino grande. Il salto inizia alle 10:30. Atletica leggera, c'è un po' di Trieste nel primo oro dell'Italia ai campionati europei indoor di Istanbul. Il vincitore del peso, Zanevair, ha il nonno materno triestino, grazie al quale si è avvicinato all'atletica. Si è trasferito in Italia da qualche anno e ora milita nelle Fiamme Gialle. Vair ha vinto con 22:06, battendo due volte il record italiano al coperto. E ora gli appuntamenti con gli spettacoli. Al Teatro Pasolini di Cervignano debutta Comizi d'Amore, l'ultimo progetto di teatro partecipato, ideato e diretto da Rita Maffei. Si ispira al film Inchiesta di Pierpaolo Pasolini ed è realizzato con le cittadine e i cittadini della Bassa Friulana, coinvolti in un laboratorio sull'amore e sulle relazioni. Alle 20:45 per la stagione di teatro e danza del CSS, Teatro Stabile di Innovazione del Friuli Venezia Giulia. Per il ciclo Protagonisti al Miela, AA Cercasi Sostegno per madre singole femminista con figlio maschio e adolescente, di e con Monica Faggiani alle 20:30. Ultimo appuntamento con Vi presento Matilde Neruda, lo spettacolo concerto con Sebastiano Somma all'Auditorium Biagio Marin di Grado alle 20:45. Uno Nessuno e Pirandello, prodotto dalla Compagnia Salvatore della Villa, sarà in scena per la stagione di Anatema alle 20:45 a Osoppo. Sul palco Tommaso Massimo Rotella e Chiara Serena Brunetta. Job è storia di un uomo semplice, il racconto teatrale in scena alle 21 al Teatro San Giorgio di Udine per la stagione di teatro Contatto. Protagonista in scena l'attore Roberto Anglisani. A Pordenone al via oggi la rassegna La scena delle donne, diretta da Bruna Braidotti e organizzata dalla Compagnia di Arti e Mestieri. Alle 18 all'ex convento San Francesco a Pordenone, performance di Playback Theater. Questa sera si recita a soggetto. Due appuntamenti con la musica, concerto con la Civica Orchestra di Fiati Verdi e il coro Antonio Hillersberg alle 18 a ingresso gratuito alla Chiesa Evangelica Metodista di Trieste di Scala dei Giganti. Alle 21 invece concerto anteprima di San Vito Jazz ad esibirsi il quartetto FAO dal Circolo Arci di Ligugnana. Parte Esercizi di Memoria, un'iniziativa di Teatro Nuovo Giovanni da Udine con l'Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia, Archivio Castiglione e il Centro Studi Padre David Maria Turoldo. Due incontri e una mostra che ripercorrono i momenti salienti della prima messa in scena dei Turkstal Friul a Venezia, pochi mesi dopo il disastroso terremoto del 1976. Da oggi al 1° aprile nel foyer del Teatro Nuovo le riproduzioni delle locandine originali realizzate per lo spettacolo e immagini delle varie fasi del debutto dell'atto unico pasoliniano. Due incontri, oggi e il 1° aprile alle 17:30, offriranno una testimonianza di quell'esperienza raccontata dal vivo da alcuni degli attori protagonisti attraverso ricordi, aneddoti e curiosità. Inoltre il documentario Stare al Mondo, Turoldo e Pasolini, di Elisa e Marco Roncalli, per la regia di Omar Pesenti, prodotto da Ente Friuli nel Mondo, Officina della Comunicazione. Alla chiesa di San Gregorio di Sacile, Pasolini Photo Days, fotografia, letteratura, reinterpretazione per celebrare l'eredità culturale e iconografica di Pasolini alle 17. Il progetto è composto da 2 volumi fotografici e da una mostra internazionale allestita nella chiesa di San Gregorio, ha visto la partecipazione di oltre 380 fotografi da tutto il mondo, candidando oltre 2000 foto e 110 portfolio. I migliori 145 autori hanno dato vita a 2 volumi fotografici: il primo, Pasolini il volto mascherato, curato e introdotto dallo scrittore Paolo Patui; il secondo, Pasolini mitografi, curato e introdotto da Enrico Medda. Continuiamo con gli appuntamenti. Viaggio a Oblivia di Alex Bellini, l'esploratore e scrittore, sarà alla libreria Lovat di Trieste alle 18. Per donne protagoniste a Porcia, riflettori accesi sull'Afghanistan, incontro con la giornalista Barbara Schiavulli, modera Paola Delle Molle, vicepresidente dell'Ordine regionale dei giornalisti, alle 17.30 in sala Diemoz, via delle Risorgive. Uno scoglio chiamato Lampedusa, presentazione del libro fotografico all'Auditorium di Povoletto alle 20.45 con le autrici Sonia Fattori e Marta Daneluzzi. Spazi è il titolo della mostra di libri d'artista che si apre alle 19 alla Galleria La Loggia di Udine, che si protrarrà fino al 30 marzo. Il Centro Studi Adria Danubia invita alla conferenza di Ervino Curtis il tragico triangolo Germania-Roma-Jugoslavia, ad Aurisina, Casa della Pietra Igo Gruden, alle 11. Conferenza in natura sul sentiero Derin, ritrova alle 14.45 a Padricciano, si parlerà di geologia e fossili. Alle 17.30 nella Sala Xenia di Riva 3 novembre 7 a Trieste, presentazione del docufilm della giornalista Martina Pastorelli, Covid-19, 12 mesi di pensiero critico, la ragione alla prova della pandemia, che ripercorre attraverso molte testimonianze il modo in cui è stata affrontata la situazione pandemica nel nostro paese. L'apertura del Piccolo di Trieste è dedicata al progetto per la prima valle idrogeno transfrontaliera, la Valle dell'Idrogeno Senza Confini, partita da 700 milioni, le ricadute del progetto tra Italia, Slovenia e Croazia, prevista una produzione di 5.000 tonnellate all'anno. Sopra la situazione dell'ex fiera, progetto bloccato, ex fiera nel degrado. In cronaca, la manifestazione dei Friday for Future, la marcia dei più giovani per salvare il pianeta, è l'unico che abbiamo. E poi la sentenza dell'allenatore condannato per abusi sugli allievi, il dolore di una mamma. Spazio poi alle elezioni regionali, con l'annuncio del primo confronto aperto al pubblico tra i candidati alla presidenza. A Trieste lo scontro fra il consigliere Dem Russo e l'assessore Lodi sui risultati di un sondaggio sull'Ovovia, e di piede 2 personaggi. Il primo è Pierpaolo Pasolini, con la richiesta di riapertura delle indagini sull'omicidio. Il secondo è Virginia Woolf e la fluidità di genere, la contemporaneità del romanzo Orlando raccontata al Teatro Verdi dalla giornalista e storica Valeria Palumbo. Friuli senza pioggia, mai così basso il livello delle falde, l'apertura del Messaggero Veneto di Udine nella foto. Notizia: Paolo Castellani in tribunale a Udine ascolta la sentenza di condanna a 24 anni per l'assassinio della moglie. Di spalla la cronaca, che entra nello sport anche perché il capitano dell'Apo, Antonuti, è rimasto coinvolto ieri in un incidente d'auto che, seppur lieve, preoccupa in vista del prossimo derby contro Cividale. Sotto Fontanini e la sicurezza, sia il riconoscimento facciale nella cronaca cittadina, articoli incentrati sulla corsa a Palazzo d'Aronco. In taglio alto economia e lavoro, le imprese non trovano personale, non abbiamo saputo raccontarci, dicono. Accolterò la moglie 71 volte, 24 anni, e l'apertura anche del Gazzettino nella fotonotizia, le linci straniere a ripopolare il Tarvisiano. In prima ancora l'energia, a Udine si è parlato anche di nucleare, e poi di spalla siccità e fondi aumentati per i dialetti veneti. Sul Piccolo di Gorizia e Monfalcone la fotonotizia in alto è dedicata alla Casa Rossa, che si colora di verde. Il riferimento è alla presentazione dello studio di fattibilità per la risistemazione del piazzale, già disponibili, spiega il Piccolo, 1,5 milioni. In cronaca ancora Gorizia, il comune vara un piano energetico per 28 edifici e 23 uffici. E poi la scomparsa a 99 anni di Carmelo Cuscunà, lottò contro l'amianto. Di piede ancora la richiesta di riapertura dell'inchiesta sull'omicidio di Pierpaolo Pasolini e poi un personaggio dello sport, Edireia guiderà in Nova Gorizia. Ramarri a casa, cresce l'entusiasmo, il Gazzettino di Pordenone riserva il titolo di apertura al ritorno della squadra nello stadio di Fontanafredda. Di spalla a Pordenone i residenti chiedono di cambiare le scadenze della raccolta differenziata e anche qui siccità e primi divieti per risparmiare l'acqua. Titolo anche per le minacce di morte ricevute da una donna dall'ex marito, un militare che è stato arrestato, ne abbiamo parlato ieri. In taglio basso il Volley e la Tinet che sogna la 1 sul Messaggero Veneto. Fotonotizia per la richiesta di riaprire le indagini sulla morte di Pasolini. Accanto sicurezza, sì, del comune alla lettura delle targhe, poi orto giardino e infine per la cronaca la sentenza per il femminicidio di Udine, le minacce all'ex moglie di un militare finito in carcere. Per le rubriche della TGR oggi sul terzo canale televisivo Rai andrà in onda il settimanale. Ecco un'anticipazione della scaletta degli argomenti. Torna il settimanale. In questa puntata la siccità e la crisi del riso italiano, aumenta la richiesta ma cala la produzione e le preoccupazioni in Piemonte. Il Borgo delle Donne, Sant'Anna di Valdieri e le sei imprenditrici che lo hanno fatto rinascere. Scienza e tecnologia per la storica scuola di restauro di Botticino. Il farmacista dei terremotati da Varese ai borghi colpiti dal sisma. Finalmente sposi, 99 anni lui, quasi 90 lei, le nozze a Taranto dopo una vita di tira e molla. Come cucinare bene con gli scarti, a Trento a lezione da tre chef. Venezia e i giorni del lockdown in un video amatoriale. Oggi nel settimanale 12:25 Rai 3. In chiusura ricordiamo che Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda alle 11:30 con Biblos. Ed è tutto per questa edizione. In regia Vassia Crisman, Cice Andrea Fontanot, in redazione Valentina Veneruso, da Lara Zani e Rita Micoli. Grazie per l'ascolto e l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.